Buonasera. Buonasera, vi do il benvenuto da parte della Biblioteca Claudio Augusta qui al Centro Trevi. E questa sera presentiamo il libro Psicanalisi e Archeologia, Freud e il segreto di Atena. E la prossima settimana abbiamo una piccola pausa nelle presentazioni dei libri e abbiamo però il consueto incontro di BiblioWeb, che è un piccolo corso che si tiene il martedì alle 15:30 per imparare a sfruttare il portale. E sempre questo martedì alle 17 c'è invece inizia un nuovo ciclo, si intitola Tra le parole e sono letture ad alta voce. Questo martedì si leggerà Tabucchi. Vi do di nuovo il benvenuto e saluto i nostri ospiti, Francesco Marchioro, che è l'autore del libro, e Lucio Giudice Andrea, che lo accompagnerà. Buonasera. Grazie. Buonasera, grazie a tutti di essere qua, grazie alla biblioteca e a Francesco Marchioro che mi hanno invitato a questa presentazione. Fa piacere vedere un pubblico, per quanto non molto numeroso, però interessato a un gigante del pensiero come Sigmund Freud. Conosco Francesco Marchioro da molti anni, insieme abbiamo fatto molti anni fa, quasi 25 anni fa, di quando è? 30 anni fa, mi dice, abbiamo girato insieme un documentario per la RAI che si intitola Percorsi freudiani. Francesco ve ne parlerà un po' più nel dettaglio. Per adesso è giusto dire e sapere questo, che i legami di Sigmund Freud con questa terra non sono affatto superficiali né sporadici. Sigmund Freud venne a soggiornare qui in Alto Adige prima della Prima Guerra Mondiale, negli anni prima della Prima Guerra Mondiale, varie estati, ha lasciato traccia delle sue osservazioni nei suoi diari, anche in certi libri, di un libro addirittura, di cui adesso Francesco vi dirà qualcosa di più, credo, o il filmato che abbiamo preparato, un libro in particolare che si intitola Totem e Tabù. È un libro che ha a che fare, che studia la nascita delle religioni, il fenomeno della religione. L'ispirazione per uno di questi libri, per scrivere questo libro, Totem e Tabù, è venuta proprio qui durante il soggiorno sul Renon. Francesco Marchioro del resto ha esplorato, credo, ogni angolo e ogni segno della presenza di Freud qui in Alto Adige, e a lui cedo subito la parola per il primo intervento. Grazie alla biblioteca che ci ospita, grazie a voi, grazie a Lucio Giudice Andrea che ha accettato di essere con me qui presente per questo libro che è appena uscito. Lui ricorda appunto il lavoro che abbiamo compiuto nell'87, veramente il mio primo segno lasciato in Alto Adige è stato questo film che abbiamo realizzato insieme, Percorsi freudiani. Mi fa piacere di avere qui l'ex sindaco del Renon, che ci ha tante volte ascoltato quando eravamo lì a proporre Freud, e alla fine ci siamo riusciti anche grazie alla sua disponibilità e alla sua profonda cultura. Dicevamo di Freud, Totem e Tabù, è un libro che nasce con l'albo, ne abbiamo testimonianza dagli scritti di Freud, soprattutto dalle lettere che lui scambia con Jung, siamo appunto nel 1911, la sua amicizia con Jung è ancora molto forte, ma sta per andare verso il tramonto per divergenze che proprio nel 1911 sorgono tra la teoria di Freud e la teoria di Jung. Simboli della trasformazione, segna già una grande separazione nella concettualizzazione di Jung rispetto ai concetti a cui Freud tiene molto e che sono fondamentali nella sua costruzione teoretica. Ma di questo filmato che abbiamo realizzato mi fa piacere proporvi un minuto che riguarda proprio il richiamo alla sua raccolta archeologica, che ora vi faccio vedere. A chi avesse varcato la soglia dello studio in Percasse 19 aveva tutto intorno una singolare atmosfera creata dagli oggetti. Quindi pronta dalla nave. Quel messaggio per Cacciso. Essere la vita è un quello dei resti della vita intro alla vita attraverso uno straordinario, ma pur pienamente corretto, procedimento indiretto. Per una singolare coincidenza. Il film procede adesso a raccontare quello che è stata un'opera di Freud imperniata sull'archeologia che si chiama Gradiva, il delirio e i sogni nella Gradiva di Wilhelm Jensen, ma su questo noi non ci soffermiamo. Era così un passaggio di quello che, quando qualcuno mi chiede da dove nasce anche questo lavoro, nasce da tanti incontri che ho potuto fare durante questo mio lavoro di studio. E uno di questi è stato anche proprio la Bergasse 19, dove ci recammo, io mi ero già recato da solo anni prima, e la cosa che maggiormente mi aveva in qualche modo sorpreso è che la casa dove lui aveva vissuto e aveva abitato era vuota, disadorna, perché ovviamente nel 38, quando lui è costretto a causa del nazismo ad andare a Londra, con grande fortuna e grazie soprattutto a Marie Bonaparte riesce a portare con sé la raccolta archeologica. Però andare alla Bergasse e non trovare nulla mi ha fatto una sensazione di grande vuoto. Allora mi sono detto: dov'è finita la raccolta? E allora, siamo negli anni 80, non c'erano tracce come oggi, per cui se uno va nel museo di Londra c'è una sezione dedicata all'archeologia e di volta in volta vengono esposti alcuni dei 3.000 reperti. Allora proprio si sapeva che erano finiti a Londra, ma non c'era nulla. Questo mi ha anche in qualche modo incuriosito e mi sono detto: forse qualche cosa posso fare in questo senso. Ecco, questa è stata una delle fonti del mio libro. Psicoanalisi e archeologia. Adesso io non voglio rubare il mestiere a Francesco, che ne capisce molto più di me, però diciamo due cose si possono dire prima di entrare in particolare in questo parallelo che tu fai: psicoanalisi e archeologia. Permettetemi se la prendo un po' alla lontana, diciamo così. Tutti noi percepiamo un mondo e quindi ci siamo noi e c'è questo mondo. In termini filosofici si può dire che c'è un soggetto, ci siamo noi, ci siamo i soggetti che conosciamo il mondo, che conosciamo gli oggetti attraverso i nostri sensi, attraverso il nostro intelletto. Nel corso di quella che chiamiamo civiltà, questo soggetto, questo io, io penso, io parlo, io agisco, è stato, come dire, differentemente pensato e differentemente studiato. Di solito Freud viene inquadrato in la sua opera, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Di solito Freud viene inquadrato appunto nell'epoca storica in cui perlomeno la cultura occidentale assiste, come dire, alla caduta di molte sue certezze, di molte sue la scienza in quel periodo, gli scienziati scoprono il principio di indeterminazione. Guardate che in realtà non si può dire sempre esattamente e senza alcun dubbio un'affermazione sulla realtà, perché la realtà è mobile, la realtà varia, perché i nostri strumenti di conoscenza sono imperfetti. E in questo contesto viene, come dire, collocato anche Freud come studioso di questo io. E contrariamente alla una percezione, come dire, superficiale, cosa che potremmo avere, per cui noi tutti abbiamo, chi più chi meno, però noi tutti siamo dotati di intelligenza, di informazioni, di sensi, di strumenti, e siamo in grado di conoscere attraverso questi mezzi la realtà che ci circonda e interagire con essa. Credo si possa dire, poi passo la parola a Francesco, che Freud apre invece una enorme e per certi aspetti spaventosa prospettiva su questo io. Questo io, come noi lo definiamo, In realtà è qualcosa di molto più complesso, è qualcosa di molto più contorto, è qualcosa che ha molti più strati. Questo io ha delle parti di sé che non conosce, eppure che agiscono in lui, che lo determinano. Questo io ha dei bisogni, ha dei desideri, ha delle frustrazioni, ha delle aspirazioni. Le sue idee non sono sempre, così come dice o direbbe o vorrebbe dire un assunto della filosofia classica, le idee chiare e distinte. Le idee che noi abbiamo, le idee che noi ci formiamo sono determinate anch'esse da questo profondo che è in noi e, come dire, non volendo, oppure forse volendo, consciamente o inconsciamente, ho già usato dei termini che rimandano appunto a questo, al titolo del libro, Psicoanalisi e archeologia, perché si parla di strati, si parla del nostro io, della nostra persona come di un'entità che ha molti strati, che è stratificata, si parla di lavoro di scavo, cioè di andare a vedere che cosa c'è qui sotto, che cosa c'è sotto l'apparenza che apparentemente ci soddisfa tutti quanti, e poi si tratta dai reperti che noi troviamo, dai segni che noi troviamo, dalle statuette che ci sono, forse anche dalle statuette, non lo so, Francesco ce lo dirà, che ci sono tramandate dal passato, diciamo, che abbiamo recuperato e che risalgono a epoche molto lontane. In base a questi segni, a questi reperti o a questi idoli, e si tratta poi di ricostruire, ed ecco che più o meno, Francesco, spero senza troppi errori, ti do modo di parlare più approfonditamente di questa analogia tra il lavoro dell'analisi, della psicoanalisi, dell'analisi della nostra psiche, e il lavoro dell'archeologia, per il quale Freud aveva un'evidente passione. Giustamente tu dici appunto della scoperta dell'io, e Freud dice che l'io non è padrone in casa propria. Noi pensavamo all'io come qualcosa di costruito, qualcosa di integro, qualcosa di unico, qualcosa che poteva procedere nel mondo senza alcuna ombra, e Freud scopre che l'io invece è attraversato da pulsioni, passioni, affetti, emozioni, è abitato lui stesso da quelle potenze che lui ritrova nei miti. Lucio ha parlato di strati, giustamente. Freud si accorge che l'archeologia parla di strati e parla in questo senso anche di quello che lui va scoprendo durante il suo lavoro analitico. Nell'individuo, dice Freud, è sedimentata una Grecia psichica nel suo rimosso, nel suo inconscio, che l'analista cerca di riscoprire. E questa metafora della psicoanalisi e archeologia è una metafora che lui utilizza subito quando parla del suo lavoro. Lo utilizza nel 1896, quindi siamo nei primi scritti di Psicologia dell'Isteria, e porterà avanti questa metafora fino alla fine dei suoi scritti, 1937, il Mosè di Michelangelo del 39. Quindi è una metafora produttiva, è questo che mi ha colpito. Perché Freud continua ad utilizzare questa metafora all'interno della sua opera per tutto l'arco del suo lavoro? E in questo senso un influsso, mi sono anche chiesto che senso ha raccogliere, che senso ha in Freud questo accumulare 3.000 tra statuette, vasi e altri oggetti antichi. Certo, ci sono tante domande, qualcuno ha detto che era una compulsione maniacale di mettere insieme, è possibile, altri hanno detto che rappresentava una moda aristocratica dell'epoca, per cui alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, quando ancora i musei non avevano quella funzione di raccolta, di conservazione e di rappresentazione quasi di una antropologia universale, questo lo facevano i collezionisti, lo facevano piccole mostre. Però questo non mi soddisfaceva, perché secondo me, guardando proprio la biografia di Freud, ci sono dei tratti in lui che hanno influito su questa sua passione. Io ne ho enucleati tre fondamentalmente. Uno che riguarda la sua relazione con il padre Jacob e con la funzione della Bibbia di Philipson, la Bibbia di famiglia che Jacob ha acquistato quando Freud era bambino, e che è la prima Bibbia in doppia lingua, ebraico e tedesco, e che ha più di 800 immagini tratti dal museo, dal British Museum, per cui il piccolo Freud, il giovane Freud, andando a consultare questa enciclopedia antropologica, filosofica, religiosa, ha modo di venire a conoscenza dei grandi tesori che c'erano nel mondo, dei grandi tesori antichi, dei grandi miti, dei grandi condottieri, dei grandi personaggi, e in lui suscita il desiderio di approfondire e di viaggiare. Una seconda motivazione che ho trovato è la contemporaneità tra la sua vita e Schliemann. Schliemann scopre Troia nel 1871 e questo ha una grande eco in tutto il mondo, quindi anche lui sicuramente nel 71, lui è giovanissimo, 6 anni, 5 anni, ma anche dopo, insomma, a 11 anni. Per cui questa scoperta susciterà in lui ancora di più questo desiderio di andare anche lui a scoprire e a conoscere. Poi quando nello stesso periodo lui si trova a Parigi, dove va a lezione di Charcot. Charcot è il più grande psichiatra dell'epoca, ma è anche colui che nella propria casa ha un piccolo museo, di cui sicuramente Freud rimane affascinato. E poi rimane affascinato nel visitare il Louvre. Ci sono delle lettere alla fidanzata Marta in cui lui dice non mi sarei mai più staccato e devo tornarci. Quindi c'è un fascino proprio che riguarda la sua formazione. E sicuramente tutto questo influisce nel suo desiderio di conoscere la storia individuale, ma anche la storia dei popoli. L'origine dei popoli diventa per lui una delle motivazioni per cui indagare. Lui stesso afferma che ha letto più di archeologia che di psicologia, quindi è una passione divorante. Lui ha avuto tre passioni nella sua vita: la psicologia, l'archeologia e i sigari. Purtroppo il sigaro l'ha portato al tumore e quindi poi alla morte. Ma Freud non conosce misure, dice, quando uno è preso dalla passione è qualche cosa che in lui brucia. Ecco, in questo senso l'archeologia rimane una sua grande attenzione, una sua grande passione, perché trova delle analogie fruttuose in relazione al lavoro che lui sta svolgendo e alla teoria che sta predisponendo. Adesso io direi, Francesco, se riusciamo a farle vedere, o si è bloccato il computer? Sì, è andato fuori. Ci vuole la password. Perché si può, diciamo così, dopo queste considerazioni di ordine più generale si può entrare più nel dettaglio. Francesco li ha fotografati, dispone delle fotografie della raccolta di statuette di Freud. Non sono poi solo statuette, sono appunto anche maschere, vasi, in generale reperti archeologici, e ci sono quelli, ce ne sono di egiziani. Non è giusta la password. Ce ne sono di egiziani, allora se non sbaglio questi reperti, che oggi hanno un certo valore, erano anche acquistabili o reperibili più facilmente, diciamo. E poi naturalmente della antica Grecia, c'è, adesso li vedremo, c'è Eros, c'è Horus, c'è Iside, c'è Venere e poi soprattutto c'è Atena, ma su Atena ce la dobbiamo riservare, Francesco, perché su Atena c'è un discorso più specifico da fare. Però diciamo così, la prima cosa che verrebbe da pensare sarebbe questa: queste statuette rappresentano per Freud, come dire, delle categorie della sua psicoanalisi. Si potrebbe dire questo, che gli uomini hanno raffigurato Eros, il dio dell'amore, perché sentivano, percepivano, in un qualche modo intuivano che questo Eros, questa forza che agisce in noi, come dire, è la forza che è, appunto. Quindi queste statue sono in forma solida delle categorie del pensiero? Si può dire così? Diciamo che le statue sono degli oggetti semiofori, cioè sono portatori di significato, di senso. Quando lui, ad esempio, durante una seduta si alza, perché come avete visto, vediamo ancora meglio adesso dalle foto, la sua casa è piena, non c'è un angolo della sua casa che non sia parte di questo museo, anche dove lui analizza il famoso divano. Ovunque ci si giri è un cerchio magico, è come se lui avesse di fronte a sé in tutto il suo lavoro, in tutta la sua giornata, queste figure. Perché sono figure, appunto, quando lui si alza e va in una vetrinetta e prende un oggetto antico, lo porta al paziente, è come dire, ecco, questo io voglio significare, che è poi la funzione della metafora. La metafora significa molto di più e molto più profondamente di quanto è capace di dire la definizione. Allora è come dire, parla a questa statuetta, non per niente lui di fronte al Mosè di Michelangelo è rimasto ed è ritornato moltissime volte, ha scritto anche un saggio sul Mosè, quel Mosè a cui Michelangelo sembra abbia detto perché non parli. Ecco, le sue statuette sono un po' come questo Mosè. Parlate voi, date voi una significazione figurativa a quello che io, attraverso la mia interpretazione, cerco di dire al paziente. È come se queste figure che attornano la sua vita e la storia dei pazienti dovessero portare figurativamente quello che lui è costretto solo ad ascoltare. Freud non voleva essere visto dal paziente, non sopportava che per l'intero giorno dovesse essere osservato dal paziente, riteneva che la parola di per sé è già qualcosa che significa molto ed è anche difficile a volte coglierne tutte le significazioni. E quindi per lui questo materiale archeologico raffigurava quell'indicibile, quell'ineffabile che lui cercava di ricavare dall'analisi del paziente e di restituire attraverso delle interpretazioni che il paziente potesse cogliere come momento di trasformazione. E nella copertina del libro c'è questa acquaforte di Pollack che mi ha molto impressionato, è una delle immagini che mi hanno anche proprio portato a lavorare intorno a questo libro. Mi sono chiesto, ma è del 1914, dove vediamo un Freud assorto in una lontananza indicibile di fronte a queste statuette mute eppure parlanti, silenziose eppure di grande potenza, statuette che lui aveva intorno, e quando, se noi lo pensiamo, mentre scrive le sue opere su questa scrivania, sono lì davanti a lui che l'ascoltano, lo interrogano, e lui le interroga, lo osservano. È come se fossero delle figure ispiratrici, è come se lui senza queste presenze non avrebbe potuto fare tutto quello che gli è stato possibile scoprire. Quindi la mia meraviglia è stata proprio questa, di sondare tutta la sua opera, la sua biografia e in qualche modo estrarre, come fa l'archeologo, pezzo dopo pezzo, per comporre questa relazione che appunto è tra psicoanalisi e archeologia. A cominciare dalla metafora, dalla prima grande metafora che lui getta nel 1896, siamo all'inizio della sua teorizzazione, ma è da quella metafora poi che troviamo tutti i rigagnoli, i rivoli di questa grande metafora nelle sue opere. Lui scrive, fa una ipotesi, supponiamo che un esploratore giunga in un paese dove si sa che ci sono degli scavi e dove si possono scorgere anche dei resti, e arrivato interroghi gli abitanti di questo luogo che confermano la presenza di questi reperti, e a questo punto annota che ciò che veniva detto è vero e può tornare. Però può anche fare un'altra scelta, dice Freud. Può prendere le vanghe, i badili che ha portato con sé, darli agli abitanti del luogo e cominciare a scavare. E si accorgerà che scavando sotto c'è una grandissima mole di materiale che permetterà a quello che era visibile di formare o la città, o la via, o la colonna, di qua, attraverso il materiale che era sommerso, che era sepolto. Ecco, questa è una metafora, dice Freud, che ci fa capire come non può l'analista archeologo lavorare da solo, deve dare i badigli e far scavare il paziente. Allora, scavando si possono trovare quei sedimenti di ricordi, quelle parti inconsce che riprese possono favorire una ricostruzione della storia dell'individuo, perché alla fine della metafora dice Freud saxa locuntur, i sassi parlano, i ricordi parlano, i sogni parlano, l'inconscio parla, si tratta di ascoltare, si tratta di tacere, si tratta di fare emergere la conoscenza inconscia dell'individuo. Questo è una metafora che lui rielaborerà, riprenderà, ridimensionerà, e alla fine, 1937, dirà: ecco, siamo giunti all'esaurimento della metafora in costruzione dell'analisi, quando dice c'è una differenza fondamentale tra la psicoanalisi e l'archeologia. L'archeologia mira alla ricostruzione, anche l'analisi mira alla ricostruzione, però questo è il suo primo passo. Mentre l'archeologia non può che ricostruire, l'analisi dopo la ricostruzione deve costruire, cioè deve utilizzare ciò che ha ricostruito immettendola nell'insieme della vita del paziente e in questo modo costruire una nuova visione, una nuova soggettività. Però appunto, come vedete, è una metafora che è stata molto molto produttiva. Allora facciamo vedere altre di queste immagini, se ci riusciamo, perché sono veramente interessanti. La casa appunto oggi, la casa oggi è vuota, la casa di Freud a Vienna, lasciata nel 1938, è vuota, però ci sono le pareti delle fotografie che esattamente fanno vedere come esattamente era arredata ai tempi in cui la abitava Freud. Scendiamo, Francesco, ancora più nel dettaglio, parliamo in particolare di una di queste statuette, che, alla quale tu nel libro dedichi un capitolo, è la statuetta di Atena, e tu dici il segreto di Atena perfetta. Cosa vuol dire? Ne avremo qui l'archeologa che ha collaborato a questa sezione del libro, che ringrazio, che ce lo potrebbe spiegare bene, ma io leggo quanto lei ha scritto. La dea della sapienza, della saggezza e della guerra, nei suoi aspetti più nobili, se cioè fatta per giusta causa e per difesa, mentre gli aspetti più crudeli e violenti di essa erano dominati da Ares, Marte, dea delle arti, della tecnica, dell'artigianato, della tessitura, nata secondo il mito greco dalla testa di Zeus, è rappresentata in questa statuetta dalla fattura non troppo accurata, stante in posizione asimmetrica, con elmo corinzio rialzato sulla fronte, lungo chitone ionico con Aegis et Gorgonion sul petto. La lancia è mancante nella mano sinistra, quando generalmente sulla mano destra, e patera umbilicata nella destra. Si tratta di una iconografia poco frequente, poiché normalmente Atena viene raffigurata con la lancia tenuta dalla mano destra e scudo a sinistra. In questo caso la dea appare come offerente con la pattera dalle bagioni in mano nella mano dominante, un'accezione rara ma riconosciuta in altri bronzetti che la mostrano con patera, coppa e o inocue nella mano destra in funzione rituale. Sì, questa tela mi ha colpito perché Freud, come faceva con i pazienti, nel porgerla a una sua paziente, una poetessa americana, Hilda Doolittle, dice: questa è la mia preferita, è perfetta, le manca solo la spada. La lancia, grazie. Ecco, è strano, no? Che Freud dice è perfetta, poi aggiunge le manca la lancia ed è la mia preferita. Allora mi sono interrogato sul significato di questa preferenza di Freud verso questa statuetta, poi è abbastanza umile. Freud aveva modo di vedere l'Atena di fronte al Parlamento nella Ringstrasse, molto imponente, grandiosa, perfetta, quella sì, perfetta nelle sue forme. Questa era modesta, eppure lui dice che è perfetta. Andando a vedere nella storia, nel pensiero di Freud, nella biografia e soprattutto nelle lettere, trovo che ancora una volta usa questo aggettivo perfetta. E lo fa alla nascita della figlia Anna. Nel 1895 non avrebbe più voluto avere figli, ma nasce Anna. E la sera del 3 dicembre, quando scrive all'amico Fliss, dice: sai, ti scrivo tardi perché se fosse stato un maschio te l'avrei detto subito e l'avrei chiamato Wilhelm come te, ma siccome è una femmina mi sono preso un po' di tempo. Si chiama Anna, è graziosa ed è perfetta. Allora, mi sono appunto interrogato su questa analogia, su questa vicinanza tra Anna e Atena, e ho cominciato un po' a lavorare intorno al mito di Atena. Però non vi svelo il segreto, mi fermo a un certo punto, no, è bello leggere il libro. Atena nel mito è sì figlia di Zeus, ma Zeus, per concepirla, aveva sedotta Metis. Poi, siccome Dea Madre le aveva detto: guarda che se poi nasce un figlio ti detronizzerà, Zeus decide di sopprimere. Ma come fa? Di nuovo alletta Metis in un pomeriggio e mentre lei si addormenta la trasforma in farfalla e la inghiotte. Metis, dice il mito, dava giusti consigli a Zeus, ma arrivato il momento propizio Zeus è colto da un grande mal di testa terribile, urla: apritemi la testa, non sopporto più questo dolore. E sembra che Prometeo abbia preso l'accetta e gli abbia fatto un taglio sulla testa, e uscì Atena guerriera con un grido. Generalmente appunto si ricorda la nascita di Atena da Zeus, però la madre Metis è la dea delle emozioni. Ancora oggi, quando noi siamo emozionati per qualche cosa, diciamo di sentire delle farfalle nella pancia. E Metis era stata trasformata in farfalla. Questa duplice natura di Atena mi ha portato a un'analogia con la psicoanalisi. Certo, l'analisi deve usare la razionalità, deve usare la logica, ma deve usare anche l'emozione, quindi deve utilizzare contemporaneamente Zeus e Metis. Deve usare contemporaneamente, come dice Freud, quell'attenzione fluttuante appunto tra la ricostruzione e la costruzione, tra il ricordare e il rielaborare. E quanto ad Anna, vi lascio leggere le analogie, perché c'è un'analogia fortissima tra Anna e Atena, e tra Atena, Anna e la psicoanalisi. Psicoanalisi e archeologia, tu parlavi prima di un evidente parallelo che c'è tra queste due, diciamo così, discipline. Io volevo fare questa osservazione e chiederti cosa ne pensi, perché l'archeologia, lo scavo a un certo punto finisce, cioè Schliemann a un certo punto ha portato alla luce, adesso non so quale fosse, la settima, la sesta o l'ottavo strato, la nona, ecco, però voglio dire, a un certo punto c'è un'identificazione precisa, no? Queste pietre che abbiamo scoperto con questo scavo si riferiscono a quella città di cui si parla nei libri, e studiando quali pietre, quali muri, quali costruzioni sono coeve, io riesco bene o male a tracciare la mappa di questa città. Dopodiché andrò a fare un altro scavo. Della psicoanalisi si sa invece che compie un lavoro, lo dice Freud in un libricino, non so di quando è, però lo dice apertamente. La psicoanalisi in un certo senso è un lavoro interminabile, cioè se io mi metto a analizzare la mia psiche, il mio esse, cerco di farlo attraverso gli strumenti della psicoanalisi, arrivo ad un punto in cui dico: va bene, questi sono i miei tratti, oppure questo lavoro è, come dire, infinito, perché rilancia, perché va sempre avanti. Dunque, Freud scrive analisi terminata e non terminata, e la traduzione italiana è un po', non è proprio così appropriata. Tuttavia la domanda se l'analisi sia interminabile o meno, credo concerna la volontà del paziente di arrivare fino a dove. L'analista non può portare il paziente laddove il paziente non vuole. Se il paziente ad un certo punto si ritiene soddisfatto di ciò che ha trovato e dice: l'analisi per me finisce, e benché l'analista sappia che comunque ci sarebbe dell'altro, non può portare paziente laddove non vuole. È come dire: quanta verità rivelare al paziente? Si può rivelare la verità del paziente al paziente a seconda della sua capacità, del suo livello di sopportazione della propria verità. Perché è lunga l'analisi? Perché a volte anche interminabile? Perché l'individuazione di questo limite e di questa linea è di volta in volta da decidere. Lo so che io mi ricordo una conferenza di Gervis quando venne, in quella lezione di psicoanalisi che organizzammo anni fa, disse: no, qui il paziente oggi vuole sapere quante sedute, se la sua terapia riesce, vuole garanzie. Ecco, questa è la grande differenza tra la psicoanalisi e le psicoterapie diversamente coniugate. A Freud scrive a un certo punto, scrive a Ferenzi, dice: sai che scocciatura anche per me, dice, sempre più i pazienti vengono qui e mi dicono: quante sedute ci vogliono? E lui, allora io gli rispondo: se tu vai in montagna con una persona che non conosci, non puoi dirgli quanto tempo impiegherai per arrivare alla cima, non sai nemmeno se ci arriverai. Io dico sempre: incominciamo la via. Ecco, quindi anche l'analisi dipende dal lavoro che il paziente fa su se stesso e quanto lavoro vuole condurre, sempre con tutte le varie strategie delle resistenze eccetera, però a un certo punto l'analista deve saper decidere che quello che il paziente vuole è anche terminare, e se non lo vuole fare lo dimostra attraverso il suo continuo lavoro. Se non ti dispiace, proseguiamo questa discussione sulle analogie tra psicoanalisi e archeologia. Per dire questo, noi sappiamo che gli archeologi spesso per esempio gli antropologi da un'orma conservata ricostruiscono il piede, dal piede ricostruiscono la gamba, dalla profondità dell'ombra della traccia, danno una valutazione del peso, e insomma arrivano con una certa certezza, se così si può dire, a raffigurare o a delineare le caratteristiche dell'animale che ha lasciato quell'orma. Lo stesso vale partendo da reperti più solidi, più eloquenti. Se abbiamo uno scheletro, abbiamo questi scheletri nei musei di scienze naturali di animali che nessuno ha mai visto vivo, però sappiamo, e con una certa precisione li sappiamo ricostruire, nei film vediamo le loro ricostruzioni, e dobbiamo pur sempre, come dire, ritenere che siano verosimili, che non siano delle costruzioni completamente fantastiche. Ecco, questo per dire che l'archeologia, l'antropologia, l'archeologia porta a un certo punto a delle certezze, cioè Roma antica, la Roma di un certo secolo, la Roma di Augusto era fatta così. Se mi informo, ci sono tutti i libri, tutte le raffigurazioni, tutte le piantine, posso andare nel dettaglio e vedere cos'era. Ecco, questa precisione, questa certezza c'è nell'analisi, nella psicoanalisi, cioè gli strati di me che la psicoanalisi fa riaffiorare sono così certi, quello che io posso ricostruire è così certo, oppure nella psicoanalisi c'è un lavoro, come dire, di interpretazione e quindi di incertezza di quello che si sta facendo? Freud, proprio nella metafora archeologica, alla fine descrive la metafora archeologica termina perché l'archeologia si ferma alla ricostruzione, la psicoanalisi alla costruzione. Questa metafora è utile a Freud per fugare proprio quello che mi sembra emergeva da questa tua interrogazione, per fugare il fatto che l'analista inventi delle interpretazioni. Il lavoro di ricostruzione è un lavoro minuzioso su frammenti, su tracce, su ricordi e di collegamenti con fatti, con esperienze, con la storia del soggetto. Quindi l'interpretazione è sempre un'interpretazione che riguarda collegamenti tra eventi fantasmatizzati, trasformati dalla rimozione. Perciò Freud riscrive l'interpretazione dei sogni, dove porta anche gli strumenti per decodificare l'inconscio. Quindi Freud è conscio della possibilità della manipolazione dei ricordi del soggetto, però nello stesso tempo, proprio perché inserisce l'inconscio, la teoria dell'inconscio in una tecnica, è anche capace di fornire gli strumenti per interpretare. Questa funzione interpretativa in certi momenti della storia della psicoanalisi è diventata un po' una motivazione che ha portato ad interpretazione su interpretazione, un'ermeneutica esagerata, per cui tutto era interpretazione, nient'altro che interpretazioni e infinitamente interpretazione. No. Appunto perché abbiamo a che fare con dei fatti psichici e su questi fatti abbiamo gli strumenti tecnici e interpretativi per poterli chiarire, spiegare e portare anche alla soggettività del paziente, a differenza dalle altre, ho citato appunto l'archeologia, la paleontologia, eccetera, noi abbiamo a che fare sempre con un soggetto unico. Non ci sono pazienti simili o uguali, il soggetto è unico, l'unicità del soggetto porta a interpretazioni singole, singolari, solo per lui. Quello che io ho appreso, l'ho appreso, ma quello che io trovo è qualcosa che solo per lui è importante, significativo. Perciò si dice lasciare dietro le spalle, no? La teoria e la fantasia quando si lavora con i pazienti, perché è lui stesso a portare l'analista laddove preserva i suoi tesori. e si tratta solo di attendere. Non si tratta, Freud parla quando è giusto interpretare, e molto spesso gli analisti, per mostrare al paziente quanto sono bravi, anticipano un'interpretazione per mostrare che loro hanno già capito, ma questo non è interessante per il paziente, anzi gli fornisce le armi per una difesa maggiore. E Freud dice che l'interpretazione deve avvenire nel momento stesso in cui è il paziente quasi ad essere lì a pronunciarla, allora ha un effetto di trasformazione. Mi sembra di capire che possiamo, come dire, nonostante l'epoca in cui Freud si muove, possiamo però iscrivere, anzi diciamo così, non possiamo iscrivere Freud tra quei pensatori che hanno, come si dice, alla fine distrutto la realtà, dimostrato l'inconsistenza della realtà. L'anno scorso, anzi nel 2016, la parola dell'anno proclamata dagli studiosi del dizionario di Oxford era post-factual, in tedesco post-factisch. Noi viviamo in un'epoca post-fattuale, viviamo in un'epoca nella quale i fatti, le cose sembrano non avere più consistenza, e ci sono filosofi che lo teorizzano, che lo dicono. Il più celebre, come dire, precedente a Freud, forse solo di un po' precedente, è Friedrich Nietzsche. Di Friedrich Nietzsche oggi si cita di continuo una frase che lui scrisse: non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni. E quindi a questo punto siamo, come dire, autorizzati a dire tutto di tutto, a interpretare tutto di tutto, in tutto e in ogni segno. Mi pare di capire invece, Francesco, che Freud è un classico oltre che un medico, cioè è una persona che crede nel lavoro che fa e crede, come dire, alle conclusioni alle quali si può arrivare. Sicuramente, lui non ha mai smesso di cercare. Se noi guardiamo tutta la sua opera, nemmeno quando nel 39, ammalato, sofferente, continua a scrivere, cioè è un'opera che lui continua a riprendere, ad ampliare e a costruire. Sicuramente Nietzsche è un filosofo presente in Freud, nonostante lui scrisse che da bambino sì, avrebbe anche pensato di fare filosofia, ma poi si è astenuto da leggere filosofia, ma poi vediamo che spesso cita Nietzsche, e quando andiamo nella sua biblioteca, che sarebbe molto interessante un giorno anche lì fare un lavoro sulla sua biblioteca, troviamo che aveva tutte le opere di Nietzsche. Quindi la disgregazione dell'io e il pensiero nietzschiano, quel Dio è morto, quindi bisogna trovare altre chiavi interpretative del mondo e dell'uomo. Su questa stigmate del Dio è morto sicuramente si inserisce il pensiero di Freud. Non perché lui sia contro la religione, lui è ebreo, non è praticante, e spesso appunto mi si chiede: ma Freud è religioso? C'è proprio nella prefazione ebraica al libro Topi dei Tabù, c'è proprio una sua frase che dice: qualcuno mi può obiettare, tu sei ebreo ma non hai praticato, non hai seguito i riti della tua religione, non hai insegnato la tua religione ai tuoi figli, ma allora in che cosa ti senti ebreo? E lui dice: nella cosa più essenziale, la scoprirete. Su questa frase io mi sono interrogato e ho trovato una mia risposta che forse magari possiamo condividere. Se religione significa ricevere, quindi unire, quindi mettere in relazione e quindi mettere in rapporto le persone, cosa fa la psicoanalisi se non qualcosa che fa la religione? Redigere, mettere in contatto il soggetto con la propria storia, il contatto con il proprio inconscio, mettere il soggetto in contatto con l'analista attraverso il transfer. È una storia d'amore, è una storia di relazione. Quindi sicuramente Freud è un uomo religioso e la teoria è una teoria religiosa nel senso etimologico. In questo senso sì, però in un altro senso credo di no, Fede Francesco, tanto è vero che credo che lui ebbe anche, cioè, non so, non ci ho mai pensato, non saprei rispondere, ma Freud è simpatico, diciamo così, a coloro che credono in Dio e praticano anche la religione. Ma non so se simpatico, no, non so, però lui ha usato certamente delle espressioni molto forti contro la religione, ma era contro un certo tipo di professare la religione. Quando lui viene su Renon e trova che ad ogni passo c'è un capitello con un crocifisso, lui scrive all'amico Binswanger, scrive qui nel Tirolo le immagini del Signore in Dio sono più numerose degli stessi pellegrini. Cioè è una certa modalità rituale, una modalità che non ha a che fare con il Dio, ma con degli idoli che lui contesta. In questo senso sicuramente non è simpatico ai religiosi in senso di praticanti, però credo che nella sua essenza lui fosse religioso proprio per la sua ricerca di mettere in relazione il soggetto con se stesso, con l'inconscio e soprattutto attraverso l'amore. Non c'è analisi che funzioni se non c'è amore di transfert, e amore di transfert vuol dire che c'è una relazione attiva e produttiva tra analista e analizzato. Intendevo dire il Freud che parla della sessualità, per esempio, è un Freud conciliabile con il pensiero religioso, nella fattispecie della religione cristiana? Diciamo che Freud parla della sessualità. Il peso che dà la sessualità, voglio dire, non sul fatto che ne parli, ecco. Sì, secondo me sì, perché la sessualità che lui analizza è la sessualità in relazione ad esempio al padre, alla figura paterna, alla figura materna, alla relazione con l'altro. E cosa fa la religione se non ipostatizzare questa figura dell'altro o del padre come Dio o dell'altro come il superio? Cioè lui entra nella ideologia, se vogliamo, religiosa dell'epoca smascherandone le dinamiche, smascherandone la logica. In questo senso sicuramente Freud è stato tra coloro che hanno in qualche modo portato un torto all'umanità che si credeva perfetta, pia, religiosa e sapiente. Dunque resta inteso, se qualcuno vuole chiedere qualcosa all'autore del libro lo faccio in ogni momento, se no andiamo avanti. Facciamo vedere se qualche domanda. Sì, se avete qualche domanda, tieni. Ho sentito che oltre a Nietzsche c'è anche Marco Autore, che per l'aula qui si ricorda. Certo, Schopenhauer. Schopenhauer a proposito di Eros e Platone. Freud ha attinto dalla filosofia, ha attinto quei concetti che per lui poi sono diventati gli strumenti proprio per costruire la sua teoria. Lo vediamo nella mitologia, lo vediamo appunto nella filosofia. Sicuramente Nietzsche, sicuramente Schopenhauer, sicuramente Platone sono dei suoi antesignani. E poi credo che si possa dire che da Freud è nata molta filosofia, perché buona parte della filosofia ermeneutica del Novecento, pensiamo ai francesi, eccetera, affondano le loro radici in Freud. Sì, i concetti prettamente analitici sono diventati anche concetti più ampi nella cultura poi succeduta a Freud. Pensiamo anche alla fenomenologia, a Ricoeur ad esempio. Tutti hanno attinto e hanno applicato questi concetti a una struttura di pensiero che di volta in volta hanno individuato e scelto, sicuramente. Oggi questo rapporto tra psicoanalisi e archeologia non è così in voga, perché gli analisti dicono che non è più l'inconscio considerato come scavo archeologico, ma è bensì un racconto. Il lavoro dell'analista oggi è più simile allo storico, che deve raccogliere la storia del paziente ricostruirla e farla ripartire. Ma io penso che comunque sono metafore sia l'una che l'altra, perché anche la storia è sempre una storia di qualcosa che è passato, che è rimosso, quindi andiamo sempre a riprendere le antichità, no? Lo psichico inconscio che ci muove. Se Freud ha detto che ogni caso è individuale, ho capito male? Ogni analisi è individuale, sì. non ci sono generalizzazioni. C'è la teoria dell'apparato psichico, però non è che se uno conosce la teoria dell'apparato psichico allora può affrontare il paziente applicandola. Ci sono sicuramente, c'è la teoria dell'apparato psichico che ti mette nella capacità di intendere, però poi c'è la vita unica del paziente, l'unicità del paziente che di fronte alle tue conoscenze te le mette in discussione o addirittura te ne fa trovare altre. Però lui ha, per così dire, si può dire che lui abbia, come dire, per così dire, quando ha studiato appunto il fenomeno della nascita della religione, l'arte, eccetera, psicanalizzato la storia dell'umanità? Ha dato una lettura psicoanalitica alla storia dell'umanità, all'arte, eccetera. Non è che li ha costretti dentro la sua teoria, ma c'è una bellissima immagine che proprio nel nostro film ci suggerisce Mario Lavaggetto, un letterato che ha scritto quel bellissimo libro di psicoanalisi e letteratura anni fa. Lui dice che la cultura, l'arte, la letteratura sono come un grande palazzo e con tantissime porte. Alcune porte si possono aprire con la psicoanalisi, altre no. Non è che la psicoanalisi è diventata la chiave che apre la visione del mondo. Alcune, e Freud era molto cauto con l'arte. Freud diceva, fino a un certo punto bisogna avvicinarsi analiticamente all'arte, poi dobbiamo anche rispettare il suo mistero, il suo segreto. Perché Freud non era interessato all'arte, all'estetica, era interessato all'artista. Quando lui avvicina un'opera, la vicina in quanto uomo, in quanto persona. Ecco allora i suoi studi, ad esempio su Michelangelo, poi su Gradiva. Quando ad esempio lui scrive Gradiva, i sogni e i deliri nella Gradiva di Jensen, e Jung gli dice, ma hai sentito Jensen cosa ne pensa del tuo libro? E Freud scrive a Jensen, caro autore, ho scritto un libro, cosa ne pensa? E Jensen gli risponde, come giustamente poteva rispondere un artista, uno scrittore, dice, ma che lei abbia trovato queste cose? Dice, io non ne so niente, io ho scritto un romanzo, quello che poi lei ha trovato, io non ne so nulla. Ecco, e Freud scrive a Zweig, dice, io non so come faccia un artista ad arrivare a delle conoscenze del personaggio che lui tratta così profonde e in un modo così immediato, quando noi impieghiamo anni per arrivare a quella conoscenza. E cioè lui era incuriosito dalla capacità dell'artista di raggiungere l'inconscio del proprio protagonista senza accorgersi, eppure raggiungerlo, quando lui, l'analista, doveva impiegare molto tempo. E forse non lo raggiungeva così pienamente. Ecco, questo lo interrogava. Ed è, secondo me, lo sguardo con cui osserva proprio tutte queste sue statuette. Ne conosce il mito, ne conosce la storia, ne conosce i racconti, ma ancora qualcosa cerca di ricavare da questa vicinanza. Ed è appunto per lui anche una continua fonte di ricerca e di ispirazione. Prego. Forse anche perché, diciamo, questo consentiva di attingere a quei miti che potevano essere un'occasione di rapporto fra lui e il paziente, perché il mito ha un valore universale, quindi era un medium, un oggetto transizionale. Sì. E quello che dicevo appunto prima, quando si alzava per portare una statuetta al paziente, era come dire, pensa un po', a questa statuetta, alla sua storia, al suo mito, forse ti sta parlando. In questo modo era semioforo, cioè portatore di significati, non era una statuetta a caso, e quindi quando lui lo faceva proprio per dare un elemento in più che lui non poteva suggerire, non poteva anticipare l'interpretazione, però era come dire: ecco qui, questo ti parla per me, no? Sì? Dai. La profondità del linguaggio simbolico, cioè archetipale, sembra però averla nella sua valenza più profonda, sembra averla affidata a Jung. Ti sbaglia? L'aspetto archetipico sicuro, no? Perché lui non accede all'archetipo, però accede al simbolico. Per Freud queste statuette sono simboli, ma anche ciò che accade in analisi ha a che fare con il simbolo. Ci sono tre livelli nell'intendere la parola o nel vedere quello che accade: il reale, l'immaginario e il simbolico. Quindi la parola che noi diciamo, la parola del paziente, viene ogni volta ascoltata secondo questi tre livelli. Che cosa dice realmente, e questo l'analista non fantastica, perché deve arrivare alla realtà di quello che viene detto, l'immaginario che in questo discorso, in questa parola è comunque presente, e il simbolico perché è proprio così, perché è proprio quello mi sta dicendo. Quindi questi livelli Freud li sviscera, basta l'interpretazione dei sogni in questo, no? Non rende il simbolico archetipico perché non assume la teoria degli archetipi. Quello è un ambito che pertiene a Jung e che appunto sul quale lui ha sviluppato la sua originalissima psicologia del profondo. E c'è proprio nel 1912 una lettera tra Freud e Jung, quando Jung gli scrive: sa professore che sto passando le ultime settimane nello studio dei miti. Freud, super infervorato, dice: bene, mi trovo d'accordo, prosegua. Però Jung lo stava facendo proprio in funzione della sua teoria degli archetipi, no? E nel 14 l'amicizia finisce, e io dico fortunatamente, perché Jung ha avuto il coraggio, assumendo le parole di Nietzsche, ancora una volta un filosofo che dice: ripaga male un maestro colui che rimane sempre un allievo, lascia Freud e dopo un lungo periodo di profonda depressione, e lo troviamo descritto finalmente nel Libro Rosso, che è un libro straordinario, Jung intraprende la propria strada e fa nascere la psicologia del profondo, di cui ancora noi gli siamo grati. Penso che si potrebbe pensare che questi, penso che questo interesse per queste statuette rappresenti la ricerca archeologica, e la ricerca poi dell'individuo, di quegli strati delle popolazioni passate, del passare delle civiltà, che poi ritroviamo in ogni persona, in ogni individuo, in quantità diversa, in proporzioni diverse, ma in tutti noi, come alla fine punta, no, di questo iceberg, dei vari strati, delle varie civiltà, tutte parti di noi, ogni statuetta rappresenta qualcosa che appartiene a ognuno di noi in quantità diversa, chi ha più il mito di una cosa dell'altra. Però è la condensazione della storia dell'umanità, in ogni individuo. Nel senso di una componente transgenerazionale? Nel senso di un inconscio percorso dove le storie, no, delle varie civiltà, in qualche modo, dialogando tra di loro, no, formano poi gli individui di un'epoca. E poi volevo dire, quando tu parlavi, Francesco, di quella ricerca così attenta che permette che l'interpretazione sia uno strumento preciso, efficace, serio. La parte più forte, la parte del leone, la fa proprio il transfert, perché si vanno a cercare, no, i ricordi, i sintomi psicosomatici, si interpreta il sogno, si ascolta cosa è successo col partner o sul lavoro, eccetera. Ma quello che il paziente agisce con l'analista, quella è emozione, lì che dunque lì vedi veramente, no, cosa sta accadendo. E quello ti dà il termometro preciso di quello che accade. Sì. La funzione del transfert e del controtransfert, sì, no? Ecco. Certo. Freud insiste molto sul transfer, meno sul controtransfer, viene poi elaborato, naturalmente sottolineato dopo di lui, ma è quello che scopro attraverso la relazione, per quello dico che è religioso, perché se non c'è relazione tra analista e paziente, se non c'è transfert, è una relazione particolarissima di amore, allora questo non emerge, ma rimane non detto. È profondo che cerca paziente analista. Insomma, bisogna essere d'accordo con chi ti analizza. No. Con chi ti psicanalizza. No. No. No. Bisogna provare un transfer verso di lui, insomma, lei. Ma che bisogna... Bisogna essere disponibili a provare questo, possiamo dirla così. No. Perché c'è anche il controtransfer, quindi non è che devi per forza avere il transfer con l'analista. Quanti pazienti cambiano analista? Va bene anche per resistenza, ma anche perché appunto non con tutti gli analisti emerge il transfer. Io conosco appunto persone che hanno, prima di trovare un analista con cui hanno potuto proseguire l'analisi, hanno cambiato 3, 4, 5 analisti, ma anzi questo fa molto bene, perché il transfer è qualcosa di molto personale. Non c'è una tecnica che ti insegna come instaurare il transfer con il paziente, è qualcosa che ha a che fare con le emozioni profonde, con il mondo degli affetti e con l'apertura reciproca di analista e paziente. Per trovare questo deve avvenire un incontro che non accade né con tecniche né con tutti, e magari accade e poi anche si smentisce attraverso il controtransfer, che è un lavoro ancora una volta sulle emozioni negative e sulle resistenze, ma non solo del paziente ma anche dell'analista. Quindi in analisi sono minimo due persone, anzi molti dicono che sono sei, il paziente e l'analista, i reciproci genitori e anche i nonni. Quindi non è che c'è una dualità in analisi, c'è un gruppo chiamato all'interno della seduta a cui dare voce, a cui dare ascolto. Adesso ci avviamo verso la fine perché sono le 7:10. Però c'è ancora tempo per una questione, Francesco. Come si spiega il fatto che da Freud sono nate molte scuole, che questa psicanalisi è stata, come dire, interpretata a sua volta in molti modi e addirittura caratterizzata da una forte rivalità? Esiste una lettura psicanalitica di questo? Totem e tabù è la lettura della rivalità dei fratelli per il possesso del patrimonio paterno. Quindi la rivalità fa parte dell'analisi che Freud fa della società. E che siano nati molte teorie, e questo fa molto bene, molte critiche, molte amplificazioni, ampliamenti. E quello che non fa bene al movimento psicanalitico è che siano nate molte scuole. Solo perché io ho un pensiero divergente mi fondo una mia scuola. Allora, anche qui la capacità dell'analista di dialogare con la differenza e non di mettersi nella differenza istituzionalizzando una differenza attraverso una scuola. Ciò che fa male alla psicoanalisi oggi è la proliferazione delle scuole, non dei pensieri. Oggi credo che quello che combatteva Freud era orgoglioso di essere fuori dalle istituzioni Lui diceva, ho combattuto tutta la mia vita per stare nella minoranza e non nella maggioranza compatta, e questo mi ha dato la libertà di pensare e di costruire. E quindi andare a istituzionalizzare un pensiero differente è il contrario dello scambio delle differenze e del confronto tra le differenze. Quindi credo che anche la tanto discussa relazione tra psicoanalisi e neuroscienze oggi, che ne è della psicoanalisi? La psicoanalisi rimane psicoanalisi, troverà una sua relazione con le neuroscienze, è una conoscenza in più, però c'è una grande differenza. Le neuroscienze sono sempre più capaci di spiegare il come avvengono i processi neuronali, le sinapsi, ma non di spiegare il perché. La psicoanalisi spiega il perché. La psicoanalisi è una significazione del senso del dolore, non è la spiegazione di come l'uomo, il mio cervello avverte il dolore, perché anche quando io sono riuscito a captare tutte le varie sinapsi neuronali che mi spiegano come avviene la mia sensazione di dolore, non ho spiegato al paziente che soffre per la morte di una persona amata perché soffre. Ecco allora che non c'è competizione, c'è ampliamento sulla strumentazione, magari sulla conoscenza del come, sulla conoscenza di come avvengono i processi anche della memoria, molto interessanti, però su che cosa e perché un paziente soffre di una determinata patologia, questo le neuroscienze non lo spiegano, perché non è il loro compito. Se appunto io so come avviene e come posso togliere una connessione per non fare arrivare il dolore al mio cervello, non mi ha spiegato perché quella persona mi manca, perché ho quel dolore per la perdita. Molto più interessante su questo argomento è la teoria di Bowlby sull'attaccamento, no? E quindi credo che le neuroscienze sono una conoscenza in più, non al posto della psicoanalisi, di cui la psicoanalisi tiene conto, ma non perché allora la psicoanalisi è superata. Quando si dice Freud è superato, io spesso chiedo: che cosa hai letto di Freud? Cosa sai di Freud? Oggi anche nelle facoltà di psicologia Freud non si legge più, è superato. Io dico: non è conosciuto. E la grande scoperta dei neuroni specchio, avvenuta negli anni 80-90 da Rizzolatti e compagni, era stata anticipata da Freud. Freud nel 1915, nella metapsicologia, nel capitolo sull'inconscio, scrive che è probabile, ma non aveva gli strumenti. Oggi abbiamo le PET, abbiamo il brain imaginary per dimostrarlo, ma lui diceva: è possibile che un inconscio di una persona si metta in risonanza con l'inconscio di un'altra persona. 1915, 1980, la teoria dei neuroni specchi, la specchio, l'ha confermata. Cioè vediamo come il linguaggio di Freud, spesso metaforico e spesso allusivo, mancante anche di strumenti scientifici di laboratorio, la chimica, la biologia ai suoi tempi era, benché lui dicesse tra parecchi anni la biologia dimostrerà molte cose che la psicoanalisi, di cui adesso la psicoanalisi parla, lo ha fatto, però nonostante questo lui aveva enunciato nella sua teoria qualche cosa che andava oltre le conoscenze scientifiche, ma spiegavano delle componenti psichiche dell'uomo, del suo tempo e ancora oggi. Forse anche gli studi di fenomenologia del tempo hanno dato un contributo, immagino, o hanno anticipato, penso. Sì, c'era nell'aria, diciamo, no? Nell'aria. Però Freud non seguiva, no? È come Proust, La ricerca del tempo perduto. Non è mai citato Proust in Freud, ma non perché lui non lo volesse citare, ma perché appunto in quell'epoca c'era un mondo di pensiero che portava ad una interpretazione nuova, e questo mondo di pensiero in psicoanalisi ha a che fare con la, non la scoperta dell'inconscio che esisteva prima di Freud, ma con una nuova logica dell'inconscio. L'inconscio di Freud ha una nuova logica per cui viene interpretato secondo determinate teorie che lui ha esplicitato, a cominciare dal sogno, dai sintomi, dai ricordi, dagli atti mancati, eccetera, eccetera. E questo mi porta proprio all'ultima domanda, Francesco, ne abbiamo già parlato, forse vediamo di confondermi ulteriormente le idee, perché tu le hai chiare, io le ho confuse a questo proposito e non solo a questo, però diciamo così, tu hai parlato della scoperta dell'inconscio? No, scoperta era stato già scoperto prima. Sì, però tu, no? Diciamo, l'inconscio come lo intende Freud, questa è la domanda, è una scoperta, al di là del fatto che fosse già stato scoperto prima di lui, o è un'invenzione, o è una teoria, cioè è un'ipotesi che il signor Sigmund Freud lancia per dire funziona così e così. L'inconscio era qualcosa di conosciuto, lo sanno i poeti, lo sanno i miti, lo sanno i racconti. Quello che Freud fa è che dà all'inconscio una nuova logica. Quello che lui fa è, ad esempio, che il sogno non è qualche cosa che predice, il sogno è qualche cosa che parla del passato, quindi è un capovolgimento. Il sintomo non è qualcosa che va preso così come si offre, ma il sintomo è qualche cosa che sta tra il somatico e lo psichico, e qualche cosa è il punto finale di una trasformazione, per cui se uno ha la paura di attraversare la strada non si deve lavorare sulla sua paura di attraversare la strada, perché quello è il punto finale di una paura che nasce altrove. Ecco, è un'altra logica, cioè Freud dice l'inconscio che io scopro a questo punto attraverso la mia logica è un altro inconscio, e grazie a questa lettura logica psicoanalitica dell'inconscio noi possiamo oggi avvicinare la storia dei pazienti, ma anche leggere anche la società attraverso un altro tipo di lettura. L'inconscio c'è come c'era l'America, il continente americano, prima che Colombo ci arrivasse. Bene. Si può dire questo? Si può dire. E già che mi parli di Colombo, c'è una bellissima immagine di Freud che si riferisce a Colombo quando lui parla dei viaggi, perché in questo libro parla anche dei viaggi, perché archeologia vuol dire andare alla scoperta, non stare lì seduto a leggere i libri, ma andare nelle città che hanno queste grandi scoperte archeologiche al loro interno. E a proposito di Colombo scrive Freud che durante tutto l'anno è rinchiuso nel suo studio a ricevere pazienti, a scrivere, a fare corrispondenza. In estate anch'io assumo una inverosimile somiglianza con Cristoforo Colombo. In quel periodo anch'io ho nostalgia della terra. Ecco, come Colombo dopo tre mesi di navigazione ha nostalgia della terra, così Freud dopo 11 mesi nella sua Vienna ha nostalgia della terra, deve uscire, deve andare alla scoperta. Bene, credo che come dire, la passione, l'interesse e la precisione con la quale Francesco frequenta Freud da molti molti anni sia evidente da questo colloquio, il suo interesse per un pensatore, ma in generale interesse per l'uomo, per la persona, per quello che siamo, per quello che possiamo essere o per quello che purtroppo siamo, Psicoanalisi e archeologia è il suo ultimo per ora lavoro. Francesco Marchioro ha scritto altri libri su Freud, in particolare su Freud qui in Alto Adige. Grazie di essere qui, grazie di essere a Bolzano, grazie delle tue ricerche e grazie a voi di questa serata. Ringrazio Lucio Dudice Andrea, che appunto per primo mi ha accolto quando sono arrivato in Alto Adige e ha consentito e ha lavorato con grande entusiasmo questo film su Freud e al suo pensiero critico riguardo alla psicoanalisi del mio lavoro e comunque ad una reciproca stima. Ringrazio voi per essere intervenuti e se qualcuno vuole acquistare qualche copia io qui ne ho a disposizione. Grazie. E dobbiamo ringraziare anche il direttore della sede RAI di allora, Carlo Corazzola, che è qui con noi, che ci permise di farlo quel film. Grazie Carlo.